All right, come on, get ready to go. You say you wanna leave, but I want you to stay. We're like a chameleon, we're changing every day. I know I said I'd go, I said I'd go away. But with my love like the river, I come on home someday. We keep changing, changing, changing, changing. We're changing, changing, changing. In scena 8:08, minuti, qualche minuto di ritardo, ma stiamo organizzando un po' tutti gli appuntamenti anche per questa ricca puntata in vigilia di weekend. A proposito di vigilia, sabato 27 aprile 2024, Teatro del Barcano, una sede teatrale che seguiamo, Radio Ritmo, voci e suoni dall'etere e anche di ricorrenze, perché è il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, per cui direi che qualcosina con la radio Guglielmo Marconi c'entra. E intanto presento anche chi ha portato regia a questo progetto, che è Massimo Sceusa, che è qua in diretta telefonica con noi. Mattiniero, anzi, abbiamo anche anticipato un po'. Buongiorno Massimo. Buongiorno a voi. Grazie per questa levataccia per parlare di Radio Ritmo. Intanto, che spettacolo verrà portato in occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla nascita, per il compleanno di Guglielmo Marconi? Ci puoi dire qualcosa di più? Sì, ma lo spettacolo è un omaggio agli anni in cui la radio arrivò alla portata di tutte le famiglie. Vuole in qualche modo riprendere quelle che sono le cose nate attraverso la radio, quindi al di là della cultura alla portata di tutti, anche magari di quelli che all'epoca erano ancora analfabeti, l'arrivo di grandi concerti musicali, dei grandi maestri, dei primi spettacoli di varietà, delle pubblicità, quindi la nascita del marketing in qualche maniera, ma anche della propaganda e delle fake news. E quindi prima fra tutte, forse, se possiamo definire la fake news, è quella della guerra dei mondi di Orson Welles, sì, che scatenò il panico. E infatti vedo che è riportata, tra l'altro, nella presentazione, nell'anticipazione di questo spettacolo. Chi sarà sul palcoscenico? Allora, sul palcoscenico ci sono due attori e una buona orchestra numerosa. Gli attori sono Sandra Cavallini e Mirko Rizzotto, e la grande orchestra con Gabriele Bello, Alessandro Fugliani, Claudia Piga, Davide Bracco, Dennis Zardi, e con gli arrangiamenti e la direzione di Giambattista Giocoli. Il corpo principale è proprio la trasmissione radiofonica sulla guerra dei mondi di Orson Welles. Sì. Poi all'interno di una cornice dei primi varietà che comparivano all'epoca in radio, quindi anche con le pubblicità, dei momenti di interazione con i radioascoltatori, e ci siamo un po' divertiti a immaginare che la diretta radio avvenisse dalla sala concerti, quindi c'è un pubblico dal vivo che in alcuni momenti segue la diretta radio, in altri momenti invece è fuori onda. Avete trasformato un palcoscenico in uno studio diretta, per cui sì, esattamente questo, anche visivamente, poi se verrete a vederlo vedrete le sorprese. Lo dico con una malcelata ma sempre positiva gelosia, invidia se vogliamo, però che sboccino, mi guarda da vicino. Che sboccino mille fiori, ci mancherebbe, anzi, ed è qualcosa che mette insieme ovviamente la radio e la musica anche. Hai citato Giambattista Giocoli, come stata questa intersezione? Perché un conto è proporre musica in radio, un conto avere anche il palcoscenico. Ci puoi dire qualcosa di più? Allora, lo spettacolo nasce proprio sulla base delle musiche, quindi volevamo che la musica fosse protagonista. In passato con Giocoli io e Mirko Rizzotto abbiamo già collaborato, abbiamo fatto diversi spettacoli e ci è sempre piaciuto molto costruire lo spettacolo partendo dalla musica, che ci sembra abbia un'immediatezza maggiore e che possa arrivare a tutti indipendentemente dall'età o dalla cultura. E abbiamo lavorato sia su degli spettacoli drammatici in passato, sia sull'Olocausto ad esempio, sia su degli spettacoli per bambini, e avevamo molta voglia di ripetere questa esperienza, quindi siamo partiti dal corpo musicale, tutta l'orchestra, quindi tutto ruota intorno all'aspetto musicale che ci sembra possa interessare tutti e coinvolgere tutti, spesso più delle parole. Certo, anche perché si dice, no, che il nostro corpo è composto da una forte percentuale di acqua e di liquidi, in questo caso la radio è composta in forte percentuale anche di musica, no? Esatto. A tale proposito posso mettere un piccolo stacco musicale con Terry Callier che accompagna nella nostra conversazione qualche nota per tornare poi nuovamente in diretta a parlare di Radio Ritmo, voci e suoni dall'etere al Teatro del Baraccano insieme a Massimo Sciusa, regista del progetto. Ricordo che al Teatro del Baraccano in via del Baraccano 2 a Bologna sarà alle ore 20:30 per la giornata di domani. Ordinary Joe, Terry Callier, a tra poco. To get near it, a little rhythm for your spirit. Oh, but that's what it's for. Come on in, here's the door. And I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And he thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. Now here's a mystery, and maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it. And all of your prayers may not reveal it. You got soul so you can feel it. And when you make the scene, well, you know. Just a little bit freer than I. When you find folks are giving you the running round, keep your game uptight. And if you must, just take your secrets underground. Now politicians are trying to speech you. Mad color watchers. Ci sono espressioni artistiche e metodologie di diffusione artistica che ancora si salvano dalla rete, sapete bene, è il mio impegno per tutto ciò. Beh, il teatro innanzitutto e anche la letteratura che hanno una stretta attinenza. Per quanto riguarda la diffusione, seppur certo ora ci sono metodologie quanto mai eterogenee, ma la radio resiste. Massimo, tu ascolti la radio in frequenza? Sì, l'ascolto. Bene, beh, okay. Purtroppo limitatamente al mattino, perché il mio mestiere non mi consente di seguirla durante il giorno. Però nelle prime ore del mattino, negli spostamenti, in doccia, ascolto. Io ti consiglio il Breakfast Club per Radio Città Fujiko, ecco. Mi faccio anche un po' di pubblicità e ti ringrazio anche. Ho parlato di levataccia, poi insomma sono già le 8:30, ma era organizzata alle 8:30, ho dovuto un po' cambiare in corso d'opera l'ordine del palinsesto del Breakfast Club odierno. Sei mattiniero quindi, Massimo? Vabbè, più o meno insegno quando mattino. Poi quando... Ok, va bene, quindi non ho stravolto più di tanto i tuoi piani. Okay. E per quanto riguarda il riportare sul palcoscenico, è decisamente un valore aggiunto. E come ci possiamo salvare da questo aspetto dilagante di digitalizzazione? Radio e teatro sicuramente assieme possono farcela, possono essere indubbiamente, oltre che già di per sé qualcosa di importante, anche riuscire a mantenere quella sorta di contatto fisico. Massimo, sei d'accordo? Sì, assolutamente, vorremmo un po' mettere proprio l'accento su questo attraverso questo spettacolo, cioè quanto appunto la radio e il teatro siano fratelli e lavorino bene insieme. E in effetti, se avevi la possibilità di riprendermi o di portare a teatro i momenti di organizzazione, ti rendevi conto che c'era una certa teatralità nelle mie difficoltà, e anche se noi siamo protetti ovviamente, essendo solo in frequenza, da quella immagine. Il teatro no, il teatro ogni volta è una diretta, costantemente lavorare in diretta a fare teatro, Massimo. Esatto. E ogni volta farlo in maniera diversa, altra cosa che può unire alla radio. La figura di Guglielmo Marconi a questo punto, che aleggia come anniversario o che sarà anche, non voglio dire, presenza ovviamente con quello che ha portato, sì, ma all'interno della tua scrittura teatrale? Sì, si parla della sua vita, in sintesi, è presente anche attraverso le sue immagini, vedrete, usiamo le sue immagini un po' come una maschera, sì. Perché gli attori lavorano bene sulle maschere, quindi abbiamo provato a giocare con questo aspetto dell'immagine sua e anche dell'autore della Guerra dei Mondi. E, sì, è presente, è molto presente. E a proposito di tutto ciò e di presenza, devi sapere che io ho frequentato le scuole elementari, non sono andato molto oltre, però le scuole elementari di Bologna, Guglielmo Marconi, e all'entrata di questo edificio, che non è certamente recente, c'è il busto di Guglielmo Marconi. Quindi io sin da bambino vedevo questa figura, ammetto che mi inquietava un po', questo busto così serio, e sembrava veramente un monito severo a quello che era per noi giovani per le scuole elementari, ma indubbiamente poi nei percorsi di vita vai a conoscere, a sviluppare, a certamente fare esperienza. Il primo approccio però è stato con questo viso serio che quasi invitava forza, è ora di entrare a scuola, in maniera un pochettino severa. Vabbè, questa esperienza personale per quanto riguarda la figura di Guglielmo Marconi, col quale condivido il nome, seppure il mio è anglofono, è William, ma la traduzione, se vogliamo, è identica. Radio Ritmo, voci e suoni dall'etere, per quanto riguarda il progetto di Massimo Sceusa, t'ha impiegato molto lavoro tutto ciò? Beh, ci stiamo lavorando da un paio di mesi, quindi sì, rispetto ai tempi teatrali che si utilizzano ultimamente, sì, ci abbiamo lavorato molto spesso. Non è semplice, perché chiaramente quella che è stato un programma radiofonico, portarlo a teatro non è semplice trovare la misura, perché sono passati tanti anni, perché i gusti sono cambiati, certo. E perché comunque c'era un numero di attori alla radio maggiore, e noi volevamo invece fare una cosa che portasse in primo piano la musica, quindi che non avesse un numero spropositato di attori, ma che fosse a servizio dell'orchestra. E quindi non è stato semplice, però credo che il risultato possa essere molto interessante e spesso anche divertente. In questo modo volevo appunto concludere, ci sarà maniera anche di sorridere, e il lavoro del direttore d'orchestra Giambattista Gioccoli in intersezione per la regia di Massimo Sceusa al Teatro del Baraccano, Radio Ritmo, voci e suoni dall'etere, per la giornata di domani al Teatro del Baraccano, domani sabato 27 aprile alle ore 20:30. Io ti ringrazio tantissimo, ti lascio ai tuoi impegni e viva la radio. Grazie Massimo. Certo, grazie a voi, buona giornata. Ciao. Thank you. L'ispirazione dal romanzo di H.G. Wells, Radio Ritmo, riproduce la sala concerto da cui fu trasmessa la trasmissione della CBS con l'orchestra del Baraccano, Gabriele Bello al violino, Alessandro Cugliani al violoncello, Claudia Piga al flauto, Deb Braco al clarinetto, Dennis Zardi al pianoforte, ad accompagnare le voci recitanti di Sandra Cavallini e Mirko Rizzotto. Una performance dove si ritrova una capacità straordinaria e coinvolgente di suoni e voci che ancora non sono stati sopraffatti dalle immagini, come abbiamo detto in precedenza, lasciando spazio alla fantasia e ricreando un'atmosfera molto intensa. Domani al Teatro del Baraccano, Radio Ritmo. Bring you riches, all the good things you deserve now, right now. Climbing forever, trying, find your way. Oggi non abbiamo l'Edipo Enciclopedico in apertura, non abbiamo avuto Giuda Lebrande, saluto Massimo Eberto, saluto anche Piero Di Domenico e Roberto Raspadori per l'Edipo Enciclopedico, che ovviamente sarà per la giornata d'inizio prossima settimana. Sta terminando anche il mese d'aprile 2024, ricordo l'appuntamento con Radio Città Fujiko per il 1° maggio. Should be going day by day, your world fades away, waiting to feel all the dreams that say. Ha riconosciuto questa voce, sentiamo. We'll bring you riches. E Paul Weller, quello degli Style Council in precedenza con i Jam, Wild Wound, il brano che stiamo ascoltando, che sta giungendo al termine, ancora qualche nota, pubblicità e poi si ritorna in scena. A tra poco. You're gonna find your way out of the wild, wild wood. Said you're gonna find your way out of the wild.